24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. L'economia greca continua al ribasso nell'attesa dei 130 milioni di euro di aiuti internazionali ancora in sospeso. I ministri delle finanze europee hanno posticipato l'incontro previsto per ieri sul piano Salva Grecia, chiedendo garanzie per iscritto ai leader politici che i tagli approvati dal Parlamento verranno applicati anche dopo le elezioni di aprile. L'Eurogruppo chiede inoltre ad Atene di giustificare come riuscirà a tagliare i 325 milioni di euro di budget richiesti della Troica. L'economia greca sta precipitando con una contrazione del 7% nell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Il premier Papademos ha dichiarato che se Atene non riuscirà a sbloccare i prestiti internazionali sarà una catastrofe economica. Dopo la riunione in teleconferenza di ieri, l'Eurogruppo si incontrerà lunedì prossimo. Secondo indiscrezioni, il secondo pacchetto di aiuti potrebbe arrivare ad aprile dopo le elezioni politiche in Grecia. E prima di partecipare alla teleconferenza dei ministri dell'Eurogruppo, il premier Mario Monti ha parlato nel pomeriggio a Strasburgo davanti al loro Parlamento, guadagnandosi molti applausi. Mi sono ripromesso di non fare mai questo brutto scherzo all'Unione Europea. Il primo lo strappa con la promessa di non addebitare mai ad imposizioni europee, a differenza di altri, i sacrifici chiesti agli italiani, necessari invece a suo dire per il miglioramento della vita economica e sociale del paese. L'Italia, sottolinea il premier, non è più un focolaio di contagio. Stiamo togliendo il nostro paese dalla zona d'ombra dove era stato messo. Sarà un'Italia che vorrà contribuire sempre di più a giocare il ruolo che naturalmente spetta a un grande paese fondatore dell'Unione Europea e a una delle più grandi economie dell'Eurozona. Poi un appello all'Europa Unita. Non esistono buoni né cattivi, dice Monti. La crisi dell'Eurozona ha diviso gli europei in stati centrali e stati periferici. Tutte queste classificazioni sono da rifiutare decisamente. Infine il vulnus delle Olimpiadi. C'è stata molta delusione, riconosce il premier, ma aggiunge l'impressione che l'opinione pubblica abbia capito. Credo che anche queste siano piccole testimonianze che dobbiamo offrire per dimostrare che la disciplina di bilancio non è una recente acquisizione che vogliamo al più presto toglierci dalle spalle, ma è un nuovo modo di vivere la vita civile. E nel giorno in cui Monti ha incassato un nuovo plauso dall'Europa, è stata confermata la notizia dell'ingresso dell'Italia in recessione tecnica. A distanza di 2 anni l'Italia torna in recessione, è quanto indica l'Istat nei dati relativi all'andamento del PIL per il 2011. Il prodotto interno lordo chiude infatti il quarto trimestre con un meno 0,7% su quello precedente, di qui la definizione di recessione tecnica, e dello 0,5% su base annua. A pesare negativamente nel periodo da ottobre a dicembre sono soprattutto due comparti, l'industria e i servizi. Il 2011 chiude con una media annua di più 0,4% in frenata sul 2010, che aveva fatto segnare un più 1,4%. Performance negative di fine anno a livello europeo anche per Germania, Olanda, Spagna, Gran Bretagna, unica con segno positivo la Francia. Altro capitolo è il debito pubblico. A dicembre 2011 quello italiano è cresciuto di 55 miliardi rispetto alla fine del 2010, l'incremento è del 2,98%, è quanto risulta dai dati della Banca d'Italia. Di conseguenza il rapporto debito-PIL del paese viaggia verso il 120%, sempre dai dati di Banca Italia. Aumento delle entrate tributarie e più 1,6% nel 2011 per un valore che supera i 403 miliardi di euro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I prodotti interni lordi dell'area euro e dell'Europa 27 sono scesi entrambi dello 0,3% nel quarto trimestre 2011 rispetto al trimestre precedente. E quanto emerge dalla stima flash pubblicata da Eurostat. Nel terzo trimestre l'Unione Europea 17 aveva registrato una crescita dello 0,1% e quella 27 dello 0,3%. Rispetto al quarto trimestre 2010 il PIL di Eurolandia è aumentato dello 0,7% e quello dell'Unione 27 dello 0,9%. Intanto l'incertezza sulla Grecia influenza i listini del vecchio continente. Francoforte e Parigi hanno registrato un più 0,44%, Londra ha perso lo 0,13%. Le borse europee hanno limato i guadagni sul finale di seduta in attesa dell'esito della teleconferenza tra i ministri dell'Eurogruppo sul futuro della Grecia. I listini hanno risentito dei timori su un possibile slittamento del via libera dell'Europa al nuovo piano di aiuti ad Atene necessari per evitare il fallimento del paese. Milano ha chiuso un rialzo dello 0,41% con MPS che ha realizzato la migliore performance sul FTSE MIB e ha guadagnato il 10,5%. Le azioni hanno beneficiato dell'annuncio della fondazione di voler cedere fino a un massimo del 15% del capitale. Tra gli interessati vi è il fondo Equinox di Salvatore Mancuso. Bene anche Salvatore Ferragamo più 8% e Prismian più 3,6%, premiate dal miglioramento delle stime per il 2012 da parte degli analisti. Tra i titoli negativi ha perso terreno Mediaset meno 2,7% dopo che Deutsche Bank ha tagliato il giudizio e prezzo obiettivo sul titolo visto il pessimismo della raccolta pubblicitaria. Nel resto del listino Pininfarina è balzata del 14% circa in attesa entro marzo del nuovo accordo di riscadenziamento del debito con le banche. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Adesso l'emergenza maltempo in Europa. Il dramma prosegue nell'est del continente. La Bulgaria ha chiesto l'intervento dell'Unione Europea. Sui meccanismi della protezione civile, la commissaria dell'Unione Europea, Kristalina Georgieva, al microfono di Gigi Donelli. Stiamo monitorando molto strettamente la situazione, concentrandoci soprattutto nei paesi che stanno affrontando una lunga ondata di gelo e anche una precipitazione nevosa che persino per paesi dell'Europa centrale e orientale, per non parlare dell'Italia, è assolutamente fuori dalla norma. Abbiamo mobilitato la capacità scientifica della Commissione sul fronte delle previsioni meteorologiche e anche per costruire delle proiezioni su ciò che accadrà quando le temperature torneranno a crescere. È chiaro che quello che dovremo affrontare è un severo rischio inondazioni. Abbiamo già ricevuto 3 richieste formali di intervento da parte di Stati europei, l'ultima delle quali arriva dalla Bulgaria, dove la situazione è in alcuni casi davvero drammatica. Le nostre squadre di intervento stanno lavorando con le autorità di protezione civile nazionale per fare in modo che l'azione sia coordinata e dunque efficace. L'Europa non si sostituisce all'azione delle singole nazioni. Il meccanismo europeo interviene quando le capacità nazionali vengono superate dalla portata dei disastri naturali. Il meccanismo offre una piattaforma semplificata che implica anche l'intervento di altri Stati membri, sia in termini di persone che di mezzi. C'è poi un lavoro di lungo termine sulla capacità di prevenzione che è molto diversificata nei diversi paesi dell'Unione e che deve crescere per far sì che di fronte ai disastri ci sia una reazione rapida e ben coordinata. Noi, per questo, organizziamo delle esercitazioni regionali, come quelle lungo il Danubio, che coinvolgono più di un paese e sono molto preziose. L'Italia ha una protezione civile molto capace ed evoluta e sicuramente può e di fatto rappresenta un modello per molti paesi, sia per la capacità di risposta all'emergenza in senso stretto, sia direi per la grande capacità di mobilitazione dei volontari a livello locale. Ma persino in Italia, e voglio proprio dire che questo discorso vale per qualsiasi paese del mondo, i cittadini tutti devono capire che nessuno può considerarsi al sicuro da eventi disastrosi che oramai purtroppo stanno diventando più la norma che l'eccezione. È per questo che tutti i cittadini europei devono sapere che esistono risorse e un'organizzazione europea che è pronta a intervenire ovunque serva. Negli ultimi 20 anni le risorse impegnate per la protezione civile sono aumentate sia a livello nazionale che europeo. Questo perché abbiamo colto l'urgenza, attraverso una serie di disastri, di questa struttura di protezione. Noi lavoriamo su 2 fronti, aumentare la nostra capacità di reagire, accrescere la nostra capacità di prevenire attraverso la consapevolezza dell'impatto che gli eventi possono avere su di noi e lo dobbiamo fare in maniera collettiva. L'Iran ha tagliato le esportazioni di petrolio a 6 paesi europei, inclusa l'Italia, in reazione alle ultime sanzioni imposte dall'UE a Teheran in merito al dossier nucleare. Lo annuncia la televisione di Stato iraniana Press TV. Gli altri paesi citati sono Francia, Spagna, Olanda, Grecia e Portogallo. La cronaca per chiudere: un turista svedese ha perso la vita ieri in una valanga che si è abbattuta su una pista da sci nel Tirolo austriaco. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.